Sura della Malalingua, capitolo 104 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 9 ayat e discesa dopo la Sura 75 al Qiyama. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, guai alla malalingua maldicente che la ricchezza accumula e la conta. Egli è convinto che la sua ricchezza lo renda eterno, niente affatto, sarà gettato in al-Hutama. Che cosa ti potrà spiegare cos'è al-Hutama? Fuoco di Allah, bene attizzato, la cui fiamma sommerge i cuori. In verità, quel fuoco si chiude sopra i dannati come un coperchio, dopo essersi innalzato in altissime colonne.